Focus Economia. Buonasera, sono le 17.07, questo è Focus Economia, io sono Enrico Brivio. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e poi vi ricordo la pagina di Facebook su Focus Economia. Oggi giornata con le borse in altalena, rimaste piuttosto negative per la crisi in Portogallo, ma poi andremo anche a vedere la situazione dello spread un po' peggiorato e soprattutto del petrolio schizzato in alto per via della grossa crisi in Egitto. Oro in altalena a $1,245 l'oncia, mentre nei primi scambi a New York il petrolio WTI viaggia in deciso rialzo a 1,90% a quota 101,60 al barile. Andiamo ora con le notizie in breve. Lo spread BTP Bund è sceso poco sotto 290 punti, come dicevamo, il rendimento del BTP decennale era al 4,54%. Il divario tra i titoli di Spagna e Germania era 312 punti, ma quello che preoccupa è soprattutto il differenziale del Portogallo, che è scivolato appena sotto i 600 punti base. E poi da Bruxelles ci sono state importanti dichiarazioni sulla fatidica soglia del 3% del deficit, quel numero un po' scolpito nella roccia da Bruxelles, anche se, come sappiamo, per l'Italia qualche margine in più c'è, essendo riusciti a scendere sotto quel 3%. Oggi il commissario Olli Rehn ha confermato che il deficit non può mai superare il 3%, però ha anche chiarito che la Commissione europea consentirà deviazioni temporanee dal raggiungimento dell'obiettivo di medio termine se questi consentiranno investimenti pubblici produttivi, ma solo per quei paesi, come l'Italia, che sono al di sotto del 3%. Dichiarazioni che sono state avvallate anche dal Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso. E gran consulto a Berlino con Angela Merkel, si sono trovati un po' tutti ben 20 leader europei e i ministri del lavoro per affrontare il problema della disoccupazione giovanile, un problema che richiede azioni urgenti e determinate a livello nazionale ed europeo. Servono azioni innovative, hanno detto i leader riuniti a Berlino, che fra poco terranno una conferenza stampa. Però sappiamo che già al vertice della settimana scorsa di Bruxelles si sono riusciti a trovare poco più di 8 miliardi e c'è chi, insomma, ha fatto notare che è un po' poco ancora per la disoccupazione. E all'Europarlamento, per esempio, Rebecca Harms, co-presidente dei Verdi, ha fatto notare che si tratta solo di 10 euro a testa per i giovani europei, quindi non certo abbastanza per far ripartire il motore dell'occupazione. E poi oggi ha parlato ancora il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni e ha notato come l'Italia abbia speso solo il 40% dei fondi europei assegnati. Ecco un vecchio problema, una vecchia piaga che pesa molto, soprattutto in questa situazione economica. Va velocizzato l'utilizzo delle risorse stanziate per l'attuale ciclo 2007-2013, ha affermato Saccomanni. Lo sappiamo, ci sono problemi nell'utilizzo di questi fondi, burocrazia nazionale che si somma a burocrazia europea, c'è una certa difficoltà, però lasciare lì una risorsa così importante è veramente un peccato mortale per l'Italia. Ma sentiamo le parole del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni. Per il sostegno degli investimenti l'Italia potrà contare su ingenti finanziamenti europei tra il 2014 e il 2020, principalmente destinati alle politiche di coesione economica e sociale per circa 30 miliardi di euro e dell'agricoltura per circa 37 miliardi di euro. L'Italia deve prepararsi ad utilizzare efficacemente questi fondi, potenziando le capacità di programmazione. Va velocizzato l'utilizzo delle risorse stanziali per l'attuale ciclo 2007-2013, le cui spese effettuate risultano pari a circa il 40% delle risorse programmate. Restano infatti ancora da spendere 30 miliardi entro il 31 dicembre 2015. E poi il ministro Saccomanni, ancora sul futuro dell'economia, continua ad avere gli spiragli di speranza e sostiene di essere comunque convinto che ci sia una luce in fondo al tunnel e che soprattutto, ha ironizzato il ministro, quella luce non sia un treno che ci viene incontro. Ma speriamo proprio di no, ed ecco le parole del ministro Saccomanni. Io credo che il pessimismo che ancora si sente da molte parti, credo di essere l'unico che continua a vedere un po' di luce in fondo al tunnel, e sono anche convinto che non è il treno che ci sta venendo contro. Si tratta però di segnali che vanno accuratamente interpretati, ed è chiaro che qui ci sono valenti economisti presenti, insomma la scienza economica ha i suoi momenti più difficili nel valutare i punti di svolta del ciclo, in cui ci sono dati che vanno in una direzione, dati che vanno in un'altra, e quindi si finisce che non... si dà un'interpretazione spesso che tende a esagerare l'impatto dell'uno o dell'altro. La realtà è che appunto c'è una situazione di stabilizzazione, e quindi non credo che questo sia comunque un fatto da trascurare. Insomma, dopo tanti mesi di indicazioni sempre più negative, io credo che questo fosse un dato importante da sottolineare. Quindi continua questa disputa su quando arriverà la ripresa, se presto, verso fine anno o più tardi. Ma Saccomanni continua comunque ad essere convinto che la ripresa sia dietro l'angolo, insomma, e riparta già dal quarto trimestre. Sui tempi dovrebbero incidere anche le misure prese dal governo, in particolare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, anche se sappiamo che anche quello è un nodo che rimane in gran parte da sciogliere. In ogni caso, la stabilità resta la priorità per il futuro, ha affermato Saccomanni. Sentiamo ancora le parole del ministro. Il governo ha messo in campo importanti iniziative volte ad accelerare la ripresa economica, due particolarmente rilevanti: il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche, l'insieme di provvedimenti volti a dare sostegno al settore delle infrastrutture e delle costruzioni. Queste iniziative sono state accompagnate da varie misure volte ad aiutare fasce delle popolazioni in difficoltà per le tensioni del mercato del lavoro in seguito a catastrofi naturali. Ci atteniamo che nei prossimi mesi l'andamento dell'attività economica mostri segni di miglioramento. L'azione che il Governo vuole effettuare nei prossimi mesi, con il sostegno del Parlamento, è cruciale. Si procederà al rafforzamento del processo di riforme strutturali, migliorando quelle appena intraprese e introducendo nuovi importanti provvedimenti, di cui i recenti interventi di semplificazione rappresentano un'anticipazione. E Saccomanni ha fatto il suo lavoro gettando acqua sul fuoco, affermando anche che E c'è stata un'eccessiva drammatizzazione sui derivati. Da parte della stampa, ha sostenuto il ministro, c'è stata una drammatizzazione del tutto eccessiva del problema. E qui sappiamo che è partita da un giornale che a volte viene riverito con fin troppa deferenza, con un po' forse di provinciale anche adorazione, cioè dal Financial Times, che però qualche volta qualcosa di non tutto corretto lo scrive pure lui, insomma. E poi Saccomanni ha parlato anche di ampi margini per il taglio della spesa, per abbassare le tasse. Ci sono ampi margini, ha sostenuto il ministro, per la razionalizzazione della spesa, per ottenere risparmi in molti comparti, per la semplificazione degli apparati pubblici. Sì, lo sappiamo che si può tagliare la spesa improduttiva, si deve tagliare, però sappiamo poi quanto sia difficile quando poi si va a tagliare col bisturi, insomma, la spending review, quanti tentativi sono stati fatti in passato. Speriamo che questa volta ci si riesca in modo un po' più efficace. Lo stesso Saccomanni però ha poi chiarito che nel brevissimo termine i margini di manovra sono molto limitati, anche se appunto l'azione contenimento della spesa va perseguita con molta decisione. Il ministro ha anche osservato che bisogna superare le regole del patto di stabilità interno. Sappiamo quanto i sindaci, quanto i rappresentanti degli enti locali si sentano questa camicia di forza del patto di stabilità interno, ed è indubbio che sia importante arrivare a qualche allentamento se si vuol far ripartire la spesa per gli investimenti nel territorio. Però da parte degli enti locali c'è anche da fare uno sforzo, perché come lo stesso Saccomanni ha rilevato c'è uno smisurato numero di società controllate dagli enti locali. Allora ben venga la semplificazione del patto di stabilità interno, però anche gli enti locali facciano la loro parte, sfoltiscano un po' di quegli enti inutili che in realtà appesantiscono la macchina dell'economia e dell'amministrazione pubblica. Saccomanni ha anche detto che un'accelerazione ulteriore dei pagamenti dei debiti commerciali della pubblica amministrazione è certamente auspicabile, e un provvedimento che aumentasse il plafond previsto per il 2013 avrebbe anche l'effetto accrescitivo sul gettito IVA. E poi infine ha anche detto che le condizioni del mercato del lavoro restano difficili, e questo lo sappiamo in molti. Secondo i dati provvisori dell'Istat, ha ricordato Saccomanni, gli occupati in maggio sono ancora lievemente diminuiti dello 0,1% rispetto al mese precedente. E sull'operato del governo è arrivato anche il giudizio del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, a margine di un convegno sul nuovo manifatturiero che si è svolto a Mestre. Il governo sta muovendosi nel modo corretto, ha affermato Squinzi. Il problema è che c'è poco tempo, quindi bisognerebbe accelerare i tempi e bisognerebbe avere più coraggio, mettere in campo tutto più possibile, perché la situazione è drammatica. Queste sono state le parole del presidente di Confindustria. Insomma, un giudizio positivo sull'andamento, sulla direzione assunta dal governo, ma anche un'incitazione ad avere più coraggio e muoversi in modo più incisivo. E poi rimane aperta l'avvertenza Indesit, come sapete una situazione molto problematica per l'azienda nel campo degli elettrodomestici. Il ministro dello sviluppo Flavio Zanonato ha ricordato che c'è stato un incontro e si è visto cosa si può fare per modificare un piano industriale con l'obiettivo di salvaguardare al massimo l'occupazione. Indesit Group però ha confermato il piano di riassetto per la produzione in Italia e la D Marco Milani, l'amministratore delegato, ha ribadito al Ministero che c'è disponibilità a valutare possibili migliorie, ferme restando però le esigenze di competitività del gruppo. E poi un altro segnale dal mercato immobiliare non molto confortante per la casa: prezzi giù del 5,7% nel primo trimestre, continua perciò il calo del prezzo delle abitazioni, un segnale che indica ovviamente come la crisi continui a mordere. L'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie ha registrato una diminuzione dell'1,2% rispetto al trimestre precedente, del 5,7% nei confronti dello stesso periodo del 2012. Quindi comincia a diventare un periodo interessante per chi vuole comprare casa o un appartamento, perché il mercato continua, ahimè, a scendere. E poi il problema farmaci, un'altra voce di spesa delle famiglie che a volte in questi momenti, insomma, di crisi può pesare non poco. L'industria farmaceutica italiana ha chiesto l'istituzione di una cabina di regia tra Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Sociali per rendere compatibile politiche sanitarie e crescita industriale. La richiesta è partita dal presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi in occasione dell'Assemblea 2013. Farmindustria ha anche presentato 10 proposte a costo zero per la crescita del paese. Ma sentiamo il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi al microfono di Alessandra Schepisi. La crisi economica ha riguardato l'industria farmaceutica perché grazie ai decreti di spending review, 4 manovre in 8 mesi nello scorso anno ci hanno toccato molto fortemente. Noi abbiamo detto, come ho detto prima, dei forti segnali negativi. Per esempio 11.500 addetti persi in pochi anni, di cui 1.500 solo lo scorso anno. Una produzione che è calata e che grazie all'export ancora sta tenendo, ma la domanda interna è molto calata. E questo si deve tenere conto. Le nostre proposte sono essenzialmente, noi le chiamiamo a costo zero, sono proposte per la crescita e sono molto contento che oggi le istituzioni, dal Ministro della Salute al Sottosegretario dello Sviluppo Economico, abbiano in qualche modo concordato che è necessario non più un intervento punitivo ma interventi misurati. Le nostre proposte sono un patto di stabilità, una riorganizzazione del sistema con un'attenzione ai costi non sempre che coinvolgano solo la farmaceutica, una governance appropriata del sistema e un intervento per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale che, così come è concepito, è uno dei fiori all'occhiello del nostro welfare. E ora andiamo a parlare della crisi portoghese. Purtroppo ha fatto di nuovo ballare i mercati, oggi ha mandato le borse in altalena la crisi portoghese. Il fatto che dopo le dimissioni del ministro delle finanze Vítor Gaspar e degli esteri Paulo Portas si siano diffuse voci di dimissioni di altri ministri come Assunção Cristas dell'agricoltura, del welfare, Soares, ma soprattutto quindi l'ipotesi di una crisi governativa che potrebbe poi penalizzare i partiti che hanno sposato la linea di austerità scelta dal Portogallo in accordo con la Troica. Ma per andare un pochino più a fondo su questa situazione, sull'impatto sui mercati, abbiamo con noi Fabio Fois, economista di Barclays Capital, che si occupa proprio dei paesi dell'Europa meridionale in particolare. Buonasera Fois. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, come mai è riesplosa questa crisi portoghese? Ieri e l'altro ieri era la Grecia che aveva sollevato qualche preoccupazione, ora è tornato il Portogallo nel mirino. Perché? Io direi che da quando la Fed di fatto ci ha comunicato la sua intenzione, che a un certo punto probabilmente quest'anno comincerà la fase di tapering, quindi di riduzione degli acquisti di titoli di Stato americano, gli investitori in generale si sono un pochino mossi su una posizione di risk off rispetto alle loro posizioni. Nel caso portoghese si è poi aggiunto il problema della crisi politica. La coesione politica in Portogallo è stato un asset fondamentale durante tutto l'implementazione del programma che c'è stato fino adesso, e questo è stato riconosciuto dai creditori internazionali per molto tempo, fino anche dall'IMF. Quindi io credo che nel momento in cui si è paventato il rischio che la stabilità politica e quindi la futura implementazione del programma potesse venire meno, ecco che gli investitori hanno poi cambiato ulteriormente la loro visione sul paese, che comunque era già diventata un po' negativa da quando la Fed aveva annunciato il tapering. Ma quindi si criticano un po' queste ricette imposte dalla Troica a questi paesi, e si pensa che si dovrebbe lasciare un po' di spazio a politiche orientate maggiormente alla crescita, però alla fine i mercati ci tengono che questi diktat della Troica vengano attuati. Ma quello che i mercati tengono è che i paesi che hanno degli squilibri macroeconomici pronunciati, che possono essere nel settore privato o nel settore pubblico, li correggano. Questa è la condizione sine qua non perché i mercati gli continuino a prestare dei soldi e quindi a comprare i loro titoli di Stato. Un modo per ottenere questo è sicuramente fare la cosiddetta fiscal austerity. Si può discutere se la fiscal austerity è stata fatta troppo in fretta. Ci ho detto, mi pare evidente che per paesi come il Portogallo, il cui punto di partenza era estremamente debole da un punto di vista macroeconomico, non c'era alternativa alla fiscal austerity, soprattutto in considerazione che del fatto che il Portogallo ha un debito pubblico altissimo, ma anche un debito privato alto. Ecco, ci troviamo ora con i bond portoghesi all'8%, uno spread schizzato sui 600 punti base. È una fiammata o c'è il rischio che ci troviamo a dover affrontare un'altra estate di passione che magari si estenda anche ad altri paesi periferici? Ma io credo che questa sarà una questione principalmente portoghese. Non penso che ci sarà un incendio nell'area dell'euro come c'è stato in passato, per una serie di ragioni. Prima di tutto perché ci sono degli strumenti eventualmente per contenere pressioni di mercato troppo violente, come esempio l'OMT, ma poi ci sono i paesi che potrebbero essere coinvolti da un eventuale contagio, come Italia e Spagna ad esempio, sono in una posizione di funding, quindi di debito emesso quest'anno, molto buona, sicuramente migliore della posizione ad esempio dell'anno scorso, il che riduce poi il rischio volatilità. Ciò detto, in un contesto globale dove la Fed sta cominciando a dire che ritirerà la liquidità, la volatilità rimarrà, ma non credo che ci sarà un incendio nell'area dell'euro come c'è stato in passato. Questo è un problema portoghese, il Portogallo deve trovare un modo per risolverlo quanto prima. Speriamo bene, ma poi c'è un problema che riguarda anche forse lo scudo anti, diciamo anti spread, nel senso che una delle condizioni è che un paese sia in grado di finanziarsi regolarmente sul mercato a lungo, mentre il Portogallo rientrerà regolarmente sul mercato di bond a lungo termine dopo la metà del 2014. Ecco, questo potrebbe essere un ulteriore elemento di rischio? Ma credo che sì, che lei abbia ragione, il Portogallo al momento non penso sia qualificabile per l'OMT, proprio perché non emette su tutta la curva, e se mai dovesse riuscire a farlo per la metà dell'anno prossimo, come dovrebbe, stando al programma che è stato firmato da ambo i partiti con i creditori internazionali, sarebbe sicuramente un evento positivo. Ciò detto, io credo che a Portogallo verrà chiesto di risolvere i propri problemi prima a livello domestico, che possa essere quello di trovare un'alternativa, una maggioranza alternativa e solida in Parlamento, o eventualmente andare a nuove elezioni. Benissimo, grazie mille a Fabio Fois, buonasera, economista di Barclays Capital. E noi ora andiamo con il meteo e la pubblicità. Buonasera, questo è Focus Economia, sono le 17.36, vi ricordo per i vostri sms il numero è 349-238-6666. Giornata di altalena per le borse, con il FTSE All Share che ha chiuso a meno 0,65, ma andiamo un po' più in dettaglio con le notizie di borsa. Allora, come dicevo, il FTSE All Share ha perso il meno 0,65, mentre in Germania l'indice è stato al meno 1,03, il CAC 40 a Parigi meno 1,08 e invece a Londra, la piazza di Londra, meno 1,22. Però diciamo che c'è stata un po' una ripresa in chiusura, in mattinata le borse avevano reagito molto peggio alla situazione portoghese e invece c'è stato qualche miglioramento che si riverbera anche negli Stati Uniti, dove abbiamo il Dow Jones a più 0,24 e il Nasdaq a più 0,12, quindi una borsa americana che oggi avrà una giornata più breve perché plana verso la festività del 4 luglio, che come sappiamo è la grande festa americana. Ma adesso, per andare un po' più in dettaglio sulle notizie di borsa, ci colleghiamo con Ceo Condina di Radio Core, Il Sole 24 Ore. Buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Come va? Allora, oggi borse negative per la crisi del Portogallo, ma una crisi che poi in chiusura mi pare sia stata un po' ridimensionata, o no? Sì, è stata un po' una mattinata e poi anche un primo pomeriggio un po' da incubo per le borse. Milano era arrivata quasi a perdere 2 punti percentuali, così come i principali listini continentali. Lisbona, ricordiamolo, ha chiuso con un passivo del 5,2%, poi invece nell'ultima ora di contrattazioni forse alcuni titoli che erano scesi anche su valori realmente economici rispetto a 2 o 3 settimane fa hanno spinto gli operatori ad acquistare, soprattutto a Milano, che poi di fatto è la migliore del vecchio continente, avendo perso soltanto 0,5 punto percentuale. Certo, c'è lo spread BTP Bund che è tornato a quota 290 punti base, qui insomma le tensioni sul Portogallo pesano, le tensioni sui paesi periferici dell'Eurozona, e ovviamente ne risentono alcune banche e poi i titoli delle aziende più indebitate, come per esempio le utility. Ecco, le banche abbiamo visto sono scese, vedo un'Ubibanca meno 3,17, una Banca Popolare Emilia 2,36, 2,16 il Banco Popolare, insomma banche deboli, forse anche perché lo spread è risalito a 2,90? Assolutamente sì, certo, poi abbiamo magari un'eccezione come la Banca Popolare di Milano, che invece è tra i migliori titoli, ma ricordiamo che questa azione era stata duramente penalizzata nelle ultime settimane a causa delle forti incertezze sulla governance, che poi si sono sciolte con la mancata trasformazione in SPA della società società. Come dicevamo prima, anche le utility pagano, diciamo, il rialzo dello spread, due casi su tutti, Enel che cede il 2% e A2A che cede il 2,7%. Stiamo parlando di due aziende che hanno comunque un debito significativo. Nel caso di A2A c'è anche da considerare che nelle ultime due o tre sedute il titolo aveva ben performato. Ecco, invece Tenaris è andata bene. Sviluppi negli Stati Uniti, mi pare di capire. Sì, questa mattina si è diffusa la notizia che fondamentalmente Tenaris, insieme ad altri operatori, del settore, ricordiamo che Tenaris è tra i principali produttori mondiali di tubi per la trasmissione del petrolio, hanno presentato denuncia alle autorità americane perché alcuni concorrenti, in particolare appartenenti a 9 nazioni, esportano tubi negli Stati Uniti a prezzi sleali, tra virgolette, insomma fanno concorrenza sleale. Chiaramente gli operatori hanno premiato l'ipotesi che un eventuale procedimento delle autorità americane possa poi favorire e incrementare i ricavi e i margini di Tenaris negli Stati Uniti. Ecco, una storia poi di borsa di questi giorni, però quest'oggi in negativo è RCS, che ha avuto un tonfo del meno 33% più o meno, no? Sì, nelle ultime due di fatto ha annullato quelli che erano stati i guadagni delle ultime due sedute, che erano in cui gli acquisti erano stati spinti dal fatto che Fiat avesse fondamentalmente preso in mano la situazione, sottoscrivendo anche salendo al 20% del capitale della società editoriale. È chiaro che in questo caso poi c'è l'aumento che si chiude venerdì e, come sempre avviene in questi casi, poi nelle ultime sedute il prezzo tende ad adeguarsi a quello che è il prezzo dell'aumento di capitale, di qui il crollo del titolo di oggi. Ma quindi la sensazione è che Della Valle si tenga in disparte? Ma insomma, la sensazione ad oggi è che ancora non si sa. Diciamo che oggi gli operatori di borsa non hanno dato fiducia al fatto che la società possa trovare, diciamo, un'intesa tra i due principali azionisti al momento, e quindi diciamo un timone, una strada più sicura e più forte. Certo è, come dicevo, che poi in queste ultime sedute di aumento di capitale c'è il forte influsso di alcuni fattori tecnici, quali ad esempio il fatto che poi inevitabilmente il prezzo di borsa tende ad adeguarsi a quello dell'operazione, cioè della ricapitalizzazione. Mentre invece un titolo che all'opposto aveva perso un po' di smalto, invece oggi è andato alla grande, Mediaset. Mediaset ieri nella presentazione dei palinsesti ha visto i propri vertici annunciare una possibile prima inversione di tendenza dei ricavi pubblicitari, che potrebbero tornare a crescere a luglio a un ritmo del 3%. L'importanza di questa notizia viene dal fatto che i ricavi pubblicitari per Mediaset calavano da 22 mesi consecutivi. Purtroppo non calano solo per Mediaset, calano un po' per tutti i gruppi editoriali. È chiaro che un'inversione di tendenza di questa di questa entità lascia ben sperare, non solo per il settore ma anche e soprattutto per la società, uno scenario che oggi gli operatori hanno apprezzato. Va bene, grazie mille, ciao Condina. Grazie a voi. E quindi, come dicevamo, ci sono anche delle storie a margine di Piazza Affari, in particolare su Alitalia. Alitalia ha ancora una volta bisogno di liquidità. L'amministratore delegato Gabriele Del Torchio ha affermato che sarà necessario una liquidità a dicembre 2013 pari a 300 milioni. C'è un nuovo piano industriale che Alitalia prevede di mettere in atto. Con un aumento dei passeggeri si spera da 23 a 26 milioni, più 3%, una crescita delle rotte da 149 a 203, ovvero un aumento del 36%. Del Torchio ha anche aggiunto che ci sono quattro punti strategici: la ridefinizione del ruolo di Alitalia, di Air One, nell'ambito dell'offerta di breve e medio raggio, lo sviluppo dell'attività intercontinentale, lo sviluppo di partnership infrastrutturali e più attenzione all'intermodalità con i treni. Infine, nuove opportunità dello spin-off Mille Miglia. Insomma, ci sono dei progetti, ma c'è anche la necessità di ulteriore liquidità. Per quanto poi riguarda Air One cambierà nome, colori e livrea, perché oggi assomigliano troppo a quelli di Lufthansa e quindi, insomma, si tornerà a delle divise più italiane e riconoscibile. Non abbiamo nessun impatto invece sulla manodopera, assicurato l'amministratore delegato di Alitalia per quanto riguarda questo piano 2013-2016. Quindi questa è un po' la situazione dell'Alitalia, mentre, insomma, tornando a invece l'altra storia di cui avevamo appunto parlato con Condita, Mediaset, insomma, per la prima volta avete sentito, dopo circa 24 mesi, a luglio la raccolta pubblicitaria di Mediaset è tornata con il segno positivo, una previsione leggermente superiore al 3%. E, tra l'altro, oggi c'è stata anche l'assemblea annuale dei pubblicitari italiani e Alessandra Scaglioni ha intervistato il presidente Lorenzo Sassoli De Bianchi, chiedendogli innanzitutto se si riscontri qualche timido segnale di ripresa. Ecco le parole di Sassoli De Bianchi. No, il 2013 sta andando in linea con il 2012, quindi la pubblicità è in calo abbastanza significativo. Dobbiamo intervenire con una misura shock, altrimenti non usciamo da questa spirale. E per misura shock che cosa intende? Noi abbiamo proposto al governo un credito d'imposta sull'incremento degli investimenti pubblicitari, cioè un incentivo rivolto a tutte le aziende che investono in pubblicità di investire di più nei prossimi 3 anni. Se questo non avverrà, difficilmente recupereremo gli investimenti delle multinazionali che stanno investendo da altre parti del mondo su mercati che loro ritengono più interessanti e non riusciremo a invertire la spirale negativa caratterizzata da pubblicità che cala e consumi che calano in proporzione. Ieri, presentando i palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi diceva che loro iniziano a vedere qualche segnale di ripresa sul fronte della raccolta pubblicitaria, ma in generale lei mi dice che segnali di ripresa ancora per quest'anno non se ne vedranno, che qualcosina potrà iniziare a cambiare? Noi ci aspettiamo una riduzione, un rallentamento del calo, che vuol dire che chiuderemo con un meno 12,5% rispetto al meno 18 in cui ci troviamo oggi. Non è una gran buona notizia, dobbiamo fare qualcosa di più. Certo. Senta, le chiedo un'ultima cosa, la necessità di un intervento è urgente e lei lo diceva. In generale, al di là dell'intervento, l'andamento dei consumi, l'andamento della raccolta pubblicitaria fa pensare che nel prossimo anno in qualche modo le cose potranno cambiare? O comunque, lei dice, senza una cura forte non se ne esce nemmeno nel 2014? No, su questo non mi sentirei di dirlo, le direi questo: se nella seconda parte del 2013 avremo qualche segnale significativo di recupero rispetto a quel meno 18 in cui ci troviamo oggi, cioè se andremo verso il meno 12, allora questo sarà un buon auspicio per il 2014, perché vorrà dire che la tendenza si è invertita, ma non mi farei grandi illusioni. E quindi situazione ancora molto problematica per il mercato della pubblicità, ma ora andiamo con le notizie per chi viaggia. E siamo a Focus Economia, io sono Enrico Brivio, vi ricordo il numero per i vostri sms 349-238-6666 e poi la pagina di Facebook Focus Economia. Andiamo ora a vedere un po' cosa è successo nel mercato del petrolio. L'altissima tensione in Egitto con i carri armati in piazza attorno ai palazzi del governo ha indubbiamente avuto un effetto sul mercato. Il Brent ha superato i $105 al barile, ma soprattutto il WTI a New York ha avuto un deciso rialzo dell'1,9% e quindi quindi per la prima volta da oltre un anno si è tornati sopra i 102 dollari. E mentre quindi adesso ci sono addirittura ultimissima notizia, elicotteri militari che sorvolano la piazza Tahrir, quindi sale la tensione, addirittura la Reuters parla di un inizio del golpe, quindi una situazione veramente sempre più drammatica. Affrontiamo con Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, nostra esperta di commodities, la situazione sul petrolio. Allora, questo balzo del petrolio determinato dall'Egitto o anche da altri fattori? È determinato anche dall'Egitto, in gran parte direi oggi proprio dal precipitare della situazione in Egitto. È evidente che ogni volta che c'è qualche destabilizzazione, qualche ulteriore crisi, ricordiamoci che ce ne sono tanti, basti pensare alla Siria, ogni volta che c'è qualche fatto grave in Medio Oriente il mercato del petrolio reagisce, quella è un'area da cui o viene prodotto o transita, come è il caso dell'Egitto, molto petrolio diretto ai mercati europei ma anche ai mercati asiatici. In Egitto c'è il canale di Suez, che è uno dei passaggi più importanti per le petroliere, ogni giorno ne passano 40-50, insomma quasi il 5% del traffico mondiale di petrolio, il 14% di quello di gas naturale liquefatto, che è sempre più importante soprattutto in Asia. E sono tornati ad agitarsi un po' fantasmi che ormai sembravano molto lontani, insomma ricordiamo la crisi di Suez negli anni 50 e poi in tempi più recenti, per 8 anni è rimasto chiuso dopo la guerra dei 6 giorni, quindi fino al 75 è rimasto chiuso il canale di Suez. Ci sono alternative ovviamente, oggi ce ne sono anche più da allora perché c'è un oleodotto Sumed che permette di bypassarlo, però ecco il fatto che possa essere chiuso e che quindi le petroliere siano costrette ad affrontare viaggi molto più lunghi, più costosi, sicuramente potrebbe avere degli impatti sul petrolio. Finché si trattava di dimostrazioni di piazza, di manifestanti, il timore che veramente di una chiusura del canale era minimo. Adesso che c'è uno scontro frontale tra il governo e l'esercito, ecco, avrebbe le forze e la possibilità di farlo, forse anche l'interesse di farlo come mezzo di pressione sul governo, perché dai passaggi delle petroliere arrivano entrate non indifferenti per il governo egiziano. Sì. Ripeto che la situazione è molto drammatica perché, come la Reuters ha già battuto, il consigliere della sicurezza nazionale del presidente nazionale Mohamed Morsi ha detto che il golpe militare è iniziato, quindi questo confronto tra esercito e governo per la defenestrazione di Morsi sembra essere veramente arrivato all'atto finale. Ma questi eventi quindi in questi paesi, anche se si parla di una minore dipendenza energetica per esempio degli Stati Uniti grazie al shale gas, allo shale oil, la capacità di estrarre dalle rocce gas e petrolio, gli eventi in questi paesi chiave in questi paesi del Medio Oriente continuano ad avere un effetto chiave sui mercati. Ma è un effetto, un impatto meno accentuato di un tempo. Adesso in questi giorni bisogna parlare di una reazione che è anche in gran parte emotiva. Sinceramente non penso, gli analisti non pensano che si arriverà davvero a una chiusura del canale di Suez. Sono reazioni emotive dei mercati. Poi c'è da ricordare che c'è anche molta speculazione in questo momento sui mercati perché le quotazioni del WTI del Brent, che sono state divergenti per moltissimo tempo, arrivando a costare anche più di 20 dollari di differenza tra uno e l'altro, si stanno riavvicinando perché si stanno risolvendo alcuni dei temi, adesso non vorrei dilungarmi su temi tecnici, si stanno risolvendo alcuni dei temi che tenevano depresso il prezzo del WTI, quindi c'è molta attività speculativa che si sovrappone. È vero che la maggiore indipendenza progressivamente energetica degli Stati Uniti sta togliendo un po' di vulnerabilità ai mercati, non tanto perché la produzione statunitense può sopperire a qualunque mancanza di petrolio da altre rotte, ma perché i mercati sono comunque tranquillizzati dal fatto che quella produzione c'è, quella produzione è tranquilla, e quella produzione non è poca, perché fra le sabbie canadesi e lo shale oil statunitense, che ricordavi, negli ultimi 2 anni il Nord America ha aggiunto 1.800.000 barili al giorno di produzione, è più di quanto produce la Libia nei tempi d'oro, è più di quanto produce l'Algeria e insomma hanno aggiunto un paese OPEC al di fuori dell'OPEC e delle tensioni e delle politicizzazioni che possono esserci nel loro uso della produzione petrolifera. Ma quindi i fondamentali per il petrolio, al di là appunto di questi eventi drammatici in Egitto, dove appunto, come abbiamo detto, addirittura il consigliere della sicurezza nazionale del presidente Morsi ha detto che il golpe militare è iniziato, anche se ricordiamo che l'esercito poi in Egitto a volte ha avuto una funzione stabilizzatrice, però è chiaramente una situazione di alta drammaticità. Ma dicevo, quindi, ma i fondamentali del mercato, a prescindere insomma da questi sviluppi, come, in che direzione stanno andando? I fondamentali sono relativamente deboli, anzi sorprende molti analisti che soprattutto nello scorso trimestre i prezzi del petrolio non fossero più bassi. C'è sicuramente un premio geopolitica e ci sono i consumi cinesi che potrebbero un po' rallentare. Abbiamo visto un sacco di dati dalla Cina indicare che l'economia sta effettivamente frenando, forse più di quanto molti si aspettassero. Abbiamo l'Europa che è assolutamente depressa come consumi e dall'altra parte abbiamo un'offerta molto abbondante dal Nord America, ma non solo, quindi i fondamentali sono e restano abbastanza deboli. Adesso stanno ripartendo un po' di raffinerie, quindi dovrebbe aumentare un po' la domanda nel breve, ma sostanzialmente finita l'allarme geopolitica dovrebbe un po' tranquillizzarsi. Grazie a Sissi Bellomo, ed ora io vi saluto. Focus Economia infatti oggi viene accorciato perché partiremo dopo la pausa con uno speciale sulla crisi egiziana. Buonasera a tutti da Enrico Brivio, grazie in redazione a Barbara Bianchi e Mauro Del Corvo e in regia a Paolo Corleoni. Buonasera a tutti.